Savonarola, il frate che fece tortura a Firenze, stagione 2, un programma prodotto da e per Radio Big World. In realtà sono prose scelte scritte da Pasquale Villari, che vide un'epoca in cui un uomo medio, fuori da Londra o da New York, avrebbe incontrato sì e no 1000 persone nell'intero arco della sua vita, e lette da me oggi, che vedo un'epoca in cui un uomo medio in una città come Londra o New York di persone ne incontra più di 200.000 in appena pochi minuti, e non sono neppure le due città più grandi del mondo. D'altra parte dice il proverbio che gente assai fanno assai ma mangiano troppo, e comunque tra gente sospettosa conversare è mala cosa. Serio, capitolo 7, volume 2, paura e delirio al Bargello. Le risposte che la tortura strappava al Savonarola furono adunque alterate. Qualche volta si mutava un sì, no, viceversa. Qualche volta si omettevano interi e lunghi periodi. Continuamente si aggiungevano delle frasi come: questa fu mia ipocrisia, fu mia superbia, lo facevo per gloria del mondo e simili. Di ciò ne resero testimonianza gli esaminatori stessi ed il notaio, oltre di che leggendo il processo ognuno si accorge delle molte lacune, mentre le aggiunte sono così evidenti che non di rado contrastano col senso e con la grammatica del periodo cui vanno unite. Si vede chiarissimamente che gli esaminatori, convinti di non potere, con le minacce, con la tortura e con falsificare quasi tutto il processo, render colpevole l'accusato, si sforzavano almeno fargli perdere la stima e l'ammirazione dei suoi seguaci. Noi abbiamo già detto come questo processo versava principalmente sopra tre capi: la profezia, la religione e la politica, e che il primo era il punto debole e quello su cui il Savonarola non ebbe forza di resistere alla tortura. Credendo sinceramente di essere profeta, aveva in ciò una fede assai diversa da quella che gli ispiravano il vero, la religione e la libertà. Questa fede gli dava eroismo e forza per sostenere il martirio. L'altra era come un sogno superstizioso e confuso da cui non si poteva liberare nei momenti di meditazione esaltata o di eccitamento oratorio, quando i mille benevoli occhi del popolo infiammavano la sua fantasia. Ma era piuttosto un sogno che spariva in faccia alla terribile realtà dell'ora suprema. Egli stesso se ne lamentò allora dicendo: «Oh Signore, Signore, tu mi hai tolto lo spirito di profezia!» Non di meno, quando la prima volta in presenza di tutta la commissione fu interrogato su questo soggetto, confermò le sue visioni e parlò d'un angelo che gli appariva in forma di fanciullo e gli ragionava con voce divina. Poi concluse dicendo: «Lasciate questa cosa a se stessa, perché se è da Dio voi ne avrete segno manifesto, se da uomo andrà per terra. Se io sono profeta o no, questo non è caso di Stato e niuno ha diritto di condannare o giudicare le intenzioni degli altri». Ma di nuovo messo alla tortura negò d'essere profeta e poi da capo lo riconfermava. Torturato ancora, cominciò con allegorie e risposte equivoche, le quali, alterate continuamente dal notaio, formarono una tale confusione che spesso non è possibile di intenderci chiaro. Non appena però i giudici smettevano le domande intorno alle visioni, che subito cessava di rispondere il profeta illuso e cominciava a parlare l'eroico martire della religione e della libertà. Nella seconda parte del processo, infatti, il Savonarola venne a parlare della sua opera e fu uguale a se stesso. La tortura lo trovò incrollabile. Confermò apertamente che la Chiesa doveva essere flagellata e poi rinnovata. Per aiutare questo mio fine, predicavo cose per le quali i cristiani conoscessino le abominazioni che si fanno a Roma e si congregassino a fare concilio, per quale, quando si fosse fatto, speravo fossino deposti molti prelati e anche il Papa. E io avrei cercato di essere lì ed essendo vi confidavo predicare e fare tali cose che ne sarei stato glorioso. E andando oltre su questo tenore, ripete spesso: «Avevo in animo di fare cose grandi in Italia e fuori». Interrogato se pensava ad essere Papa, rispose di no, perché quando avessi condotto quest'opera mi parrebbe essere stato più che cardinale o che Papa. Ora, se tali parole si trovano in quel processo che venne falsificato dalla mano di Ser Ceccone, si può egli più dubitare che il Savonarola sapesse sostenere con coraggio e con eroismo le sue idee religiose? Il medesimo avvenne quando fu interrogato intorno alla politica. Le aggiunte e le alterazioni non bastano a nascondere le risposte assai esplicite del frate. Egli respinse più volte sdegnosamente l'accusa che si facesse rivelare i segreti di Stato per mezzo della confessione. Più e più volte ripetette che non aveva tenuto intelligenze di Stato, non aveva favorito o disfavorito alcuno, aveva parlato in generale delle cose di Stato, lasciando la cura dei particolari al Valori, al Soderini e ad altri più pratici di lui. Il mio scopo era solamente di favorire in generale il governo libero e quelle leggi che lo miglioravano. Accennò alcune delle principali leggi che aveva proposte e che avrebbe avuto in animo di proporre più tardi, come quella del confaloniere a vita, ed è notevole ancora un luogo dove dice come, essendogli venuto il dubbio che alcuni dei suoi più fidati amici si volessero unire a restringere il governo fra loro, incominciò subito a predicare contro la tirannide e contro ogni governo di pochi. A ciò, per amore o per forza, questi tali favorissono quello governo civile. Quando si trattava della libertà, egli dunque non aveva rispetti umani, non perdonava neppure ai suoi più cari e fedeli seguaci, ed anche questo risulta con ogni evidenza da quel processo che Ser Ceccone distese a rovina del Savonarola. Dopo 11 giorni di tortura, finalmente si poneva termine ad un'esamina alla quale, sebbene compilata con tante illegalità, alterazioni ed astuzie, non rispondeva per niente al fine proposto, e la signoria stessa se ne doveva dichiarare scontentissima. Essa, scrivendo al Papa che lamentavasi della loro lentezza, era costretta a dire: «Noi avemmo a fare con un uomo di pazientissimo corpo e di sagace intelletto, il quale indurava l'animo contro i tormenti e avvolgeva la verità fra mille tenebre, sembrava quasi essere venuto nella deliberazione o di acquistarsi con simulata santità un nome eterno appresso ai posteri o sopportare il carcere e la morte. Con lunga ed assidua interrogazione per molti giorni e con la forza, appena potemmo ottenere qualche cosa che pur ci voleva nascondere mentre si aprivano quasi gli involucri stessi del suo animo». Veramente, in tutto il corso e lo sviluppo di questo processo, noi troviamo nel Savonarola quel medesimo uomo che abbiamo finora conosciuto: genio e superstizione, alti ragionamenti e triviali sofismi, eroismo sublime, qualche volta inaspettata debolezza, ma nel fondo sempre un carattere altissimo, generoso e forte. Ora afferma ed ora rinnega la sua profezia, ma interrogato sopra quei punti intorno ai quali la sua mente ed il suo cuore veggono chiaro, egli diviene subito invincibile. Le minacce, le promesse, la tortura data e ripetuta non possono più nulla, la sua volontà rimane ferma ed incrollabile ancora nel delirio. La signoria doveva quindi essere scontentissima di quel processo, essa vedeva con dolore e dispetto grandissimo che, dopo la tortura e le alterazioni, il Savonarola risultava sempre innocente. Un solo vantaggio si poteva cavare da tutto ciò, e cioè quello di screditare il frate appresso ai suoi seguaci, e non era poco. Una volta che gli avesse perduto il favor popolare, si poteva arrischiarsi a condannarlo senza tener conto delle leggi né della giustizia.